tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ormai è un classico, la Juve anticipa e allunga in classifica e il Milan torna sotto a distanza di qualche ora. Chissà se andrà così anche tra domani e mercoledì, turno infrasettimanale, la Juventus impegnata domani sera a Parma e il Milan mercoledì sul campo della Lazio. Sono due trasferte indubbiamente impegnative che potrebbero anche consentire in teoria all'Udinese di rifarsi sotto dopo lo spareggio perso sabato sera a Torino sotto la neve, ma al momento è indubbiamente un testa a testa, visto che anche l'Inter a Lecce ha interrotto la sua lunga rimonta. Qualche numero e poi direi di mettere l'attenzione sul calendario parallelo di Juventus e Milan, visto che ormai si profila per l'appunto questo testa a testa. Calendario parallelo a breve termine che mi sembra favorire abbastanza nettamente la Juventus, favorire nel senso che poi gli avversari devi incontrare tutti, ma il Milan ha un tour de force ravvicinato tutt'altro che da sottovalutare. Allora, qualche numero di quelli di Franco Piantanita del lunedì. Intanto è l'ottava doppietta di Matri in Serie A ed è la quarta con la maglia della Juve. Cominciano a essere tante. Il Milan è arrivato al 15° gol in campionato, Ibra, capocannoniere assoluto, che ha segnato solo un gol in meno di tutti quelli segnati dal Cagliari, pensate. 14 nelle ultime 13 partite, addirittura, non ha segnato soltanto contro Fiorentina nel derby, e tra l'altro sono le uniche due partite di queste 14 in cui il Milan non è andato in gol. Sta certamente esagerando Nocerino, che è arrivato al 7° centro personale, che tra poco sentiremo. È il terzo gol su punizione per Ibra in Serie A, gli altri due erano con l'Inter nel 2008-2009 contro Palermo e Fiorentina. A proposito di raffronti tra Milan e Juventus, il Milan ha segnato 15 gol con i centrocampisti e 22 con gli attaccanti, quindi diciamo che la distribuzione è abbastanza equa. La Juventus invece ha segnato di più con i centrocampisti, 16 gol, che non con gli attaccanti, che sono fermi a quota 13. A proposito di attaccanti, dopo Amauri, la Juventus stamattina si è liberata anche di Toni, che è stato ceduto alla squadra Dugalal Nasr, che è una squadra degli Emirati Arabi ed è quella allenata da Walter Zenga. Tra le altre curiosità numeriche di giornata c'è certamente quella legata ad Hernanes. Se segna Hernanes, la Lazio vince. È successo quest'anno, 5 gol e 5 vittorie, possibilmente in abbinata con Klose, come è accaduto anche ieri sul campo del Chievo. Ma il numero 5 è ricorrente nel caso della Lazio di ieri, visto che ha vinto anche la quinta trasferta consecutiva sul campo del Chievo. Dopodiché forse il numero più sorprendente di ieri è la prima vittoria del Lecce in casa, visto che è stata ottenuta contro l'Inter, non aveva mai vinto in casa in 20 giornate, aveva pareggiato due volte e perso 7, pensate, e invece ieri ha battuto l'Inter. Il numero meno gradito invece a Ranieri è il 7, perché aveva un primato personale di 7 vittorie consecutive con la Roma nel 2009-2010, era arrivato a 7 vittorie consecutive adesso con l'Inter, ma non è riuscito nemmeno stavolta ad andare oltre. Altri numeri più tardi, sempre in attesa dei vostri interventi in diretta all'800240024, e un'occhiata, vi dicevo, al calendario parallelo di Juventus e Milan. Allora, vi ho detto che domani sera la Juventus gioca a Parma e il Milan la sera dopo sul campo della Lazio. Domenica si ripropone lo stesso schema, la Juventus gioca al pomeriggio con il Siena, quindi prima di nuovo del Milan, e il Milan posticipa la sera in casa col Napoli, che è un altro ostacolo, certamente magari non altissimo in campionato, ma insomma è pur sempre un ostacolo. Mercoledì 8 c'è l'incontro diretto di andata, la prima delle due semifinali di Coppa Italia a San Siro, quindi Milan-Juventus di Coppa Italia a San Siro. Sabato 11 avviene il contrario, perché gioca prima il Milan a Udine, un campetto non proprio da ridere, mentre la sera dopo in posticipo c'è Bologna-Juventus. Il 15 il Milan ha il supplemento dell'Arsenal in Champions League e subito dopo Juventus-Catania e Cesena-Milan. Tutto questo prima del confronto diretto di campionato a San Siro. Così a spanne, perlomeno vista sulla carta, certamente il cammino del Milan è più impegnativo della Juventus ed è questo forse il momento in cui la Juve potrebbe davvero tentare la fuga. Vi dicevo dei personaggi della domenica, uno è certamente Nocerino. Nemmeno io lo so quello che so. No, sono un centrocampista che si trova al posto giusto al momento giusto e basta. Ho la fortuna di giocare con giocatori che mi mettono in condizione di far gol e cerco di sfruttare ogni minima occasione che capita in area. Sono contento e spero di continuare così. In primis adesso c'è il campionato e uno spera sempre di far bene in campionato. Poi quando ci sarà l'opportunità di andare in nazionale, uno spera anche di dare il proprio contributo e cercare di fare altrettanto. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, 5 giocatori squalificati in Serie A, tutti stranieri, sono Lavezzi del Napoli, Denis dell'Atalanta, Armero dell'Udinese, Quadrado del Lecce e Oliveira del Lecce, 2 leccesi. Punita la Juventus con 10.000 euro di ammenda per cori razzisti rivolti a 2 giocatori dell'Udinese, e in particolare recita la motivazione al 18° del primo tempo e al 9° del secondo. Gli arbitri delle partite di Serie A di domenica prossima, no, prima sentiamo un altro personaggio di quelli che non è, insomma, non è molto abituale ascoltare i microfoni. Il portiere del Lecce, Benassi, autore ieri di grandi parate a ripetizione, l'ultima in particolare, miracolo sul colpo di testa di Pazzini. Sì, quello più difficile e più importante forse, perché era fine della partita, quindi grazie a quella parata siamo riusciti a portare a casa i 3 punti che per noi sono fondamentali. Che all'inizio ho fatto un errore con i piedi che è andata bene, quindi diciamo che è stata quasi perfetta. Devo migliorare ancora tantissimo. Ci dobbiamo salvare in tutte le maniere e oggi inizia un altro campionato per noi. Secondo lei, domanda Gianni, Sneijder in questa Inter è un lusso che una squadra che va di corsa non si può permettere? Ma insomma, Sneijder 2 anni fa era indubbiamente il valore aggiunto dell'Inter, o uno dei valori aggiunti, consideriamo che c'era anche Eto'o. Adesso è diventato un problema, perché oggettivamente lo è per ragioni di modulo innanzitutto, perché Ranieri lo ha spiegato molto bene, quest'Inter è abbastanza fragile e può trovare compattezza solo se gioca un 4-4-2 abbastanza bello serrato, bello chiuso, bello compatto. Sneijder nel 4-4-2 non ci sta e quindi o gioca da seconda punta o gioca esterno in quel modulo e quindi non gioca nel suo ruolo naturale. Probabilmente è questo che gli causa un nervosismo notevole e sgradevole anche, soprattutto nel caso di martedì scorso in Coppa Italia a Napoli, e il fatto che ieri dopo la sostituzione a fine primo tempo per Alvarez abbia poi annunciato a fine partita di attendersi un chiarimento specifico da Ranieri, insomma, non promette niente di buono dal punto di vista caratteriale e dei rapporti interni. Vi dicevo degli arbitri designati per le partite di infrasettimanali, si comincia domani sera con Parma-Juventus diretta da Mazzoleni e poi si continua mercoledì sera con Atalanta-Genoa Gava, Cagliari-Roma-Romeo, Inter-Palermo-Guida, Lazio-Milan-D'Amato, Napoli-Cesena-Banti, Siena Catania De Marco, Udinese Lecce Doveri e Novara Chievo. Il posticipo di giovedì è stato invece affidato a Massa, un giovane nuovo arbitro di Imperia. Una voce ancora prima dell'intervallo, ma direi proprio quella di Cosmi a proposito di personaggi che ritornano alla ribalta. Chiaro, questa era una partita dove la partecipazione di tutti era vera, non quella virtuale, ma vera, era indispensabile. Quindi, e poi quando vedi una squadra mettere in campo quello che ha messo in campo oggi, penso che sia praticamente impossibile per un allenatore normale, siccome io non lo sono, non partecipare, insomma. Quindi non so se ho esagerato, di sicuro me la sono goduta, insomma. Pronosticato non il risultato, però nel caso avessi avessimo vinto ha detto che sicuramente il migliore in campo doveva essere Benassi, così è stato. Due tifosi juventini che la pensano in maniera diversa. Uscì indignato, scrive Federico d'Alessandria, dallo stadio durante un famoso Juventus-Inter. Immagino i fischi ai Balotelli, immagino il trattamento Balotelli. Stavolta il giudice sportivo sbaglia perché i fischi ad Arnero erano uguali a quelli a Di Natale. Brutti ma non razzisti. Mentre invece da Varazze, Angelo scrive, sono juventino ma quei 10.000 euro sono veramente pochi. Un ascoltatore dalla provincia di Milano, Carmine, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Senta, mi ascolta bene? Sì. Chiaro, forte e chiaro. Sì, bravo. Due considerazioni. Sull'Inter già ha detto tutto il collega lì chiamato Gianni. Giustamente Ranieri lì, visto che è sereno, doveva secondo me prendere delle decisioni prima della partita, non dopo o durante. E poi l'altro intervento è su Chiellini. E lei, siccome parla molto spesso con Tavelli, il ministro degli esteri suo, è il problema Chiellini, cioè non mi può andare fuori campo a sbattere uno nel cartellone pubblicitario, cioè possibile mai che nessuno vede niente? Era quella la domanda, grazie e ascolto in linea. Grazie a lei Carmine, non vedo cosa c'entra il povero ministro degli esteri che ha già molti incartamenti affidati di, appunto, di stampo internazionale. Invece tornerei un attimo alle curiosità statistiche, perché il Genoa di Marino non c'è dubbio che sia garanzia di gol. Ci sono, nelle ultime 5 partite con il Genoa in campo e con Marino in panchina, ci sono stati 28 gol totali, cioè quasi 6 di media. Poi il Genoa ne ha 22 e 2 le ha perse. Ha sempre preso almeno 2 gol, con 2 vittorie per 3-2, una sconfitta per 3-0 e una per 5-3. E un'altra curiosità da segnalare, che mi segnala per l'appunto Franco Piantanide, è che forse Gasperini, quando implorava l'estate scorsa Moratti di comprargli Palacio, non è che avesse poi proprio tutti i torti, perché con la doppietta di ieri Palacio ha stabilito il suo record personale di marcature, arrivando a 11 gol in 15 partite, che è una grande media oggettivamente, superando il suo record personale per l'appunto, che era di 9 dello scorso anno. Ettore ha chiamato dalla provincia di Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo intervenire riguardo, diciamo, alla partita dell'Udinese a Torino. E quei falli che faceva Chiellini lì in mezzo alla difesa, da rosso, ce n'è uno da rosso completo, l'espulsione. Ma che fine ha fatto la prova TV? Perché qua hanno montato la Juve per cori antirazzisti, ok, va bene, ma quei falli lì, cioè, sono superficiali, cioè secondo l'arbitro, secondo la commissione, non so. Magari fossero stati antirazzisti cori, invece semmai erano razzisti. Ettore, non so che dirle. Chiellini è un giocatore, come dire, un po' esuberante, mettiamola così. Certo, come fa notare Mauro in un messaggio appena arrivato, quei due falli in 30 secondi all'ultimo minuto o al penultimo minuto, che nessuno li abbia visti, è abbastanza singolare. Chiellini è un giocatore così, è un giocatore anche leale, se vuoi, perché in genere ti affronta di petto, di viso, non ti prende alle spalle. Certo che prenderti di preferenza ti prende, è anche molto sgraziato. E questa non è una novità, no? Fa parte delle sue caratteristiche. Il fatto di essere così lungo, così alto e così tutto sommato sgraziatello fa sì che su un campo in cui l'equilibrio è precario come l'altra sera risulti ancora più, in certi casi, nocivo. Ma insomma, quelli sono problemi dell'arbitro. L'arbitro l'ha vista così e non mi sembra che ci sia stato nulla di scandaloso. Certo, un trattamento un po' di riguardo, questo direi di sì. Giuseppe, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Niente, io mi chiedevo, da tifoso milanista, quando potrà finire questo bel momento della Juventus, perché sta giocando veramente bene. E niente, Conte ha dato una bella impronta di sé alla squadra, anche se viene su da altre promozioni nella Serie B, nella Serie inferiore, però ecco, adesso trovarsi alla guida di una grande squadra e dare in così poco tempo una propria impronta personale e mettere la squadra in condizione di rendere al 120%, cosa che faceva Mourinho ai tempi dell'Inter. È vero che non hanno le coppe, è vero tutto quello che vogliamo nei turni infrasettimanali, però la Juventus sta giocando veramente bene, ripeto, parlo da tifoso milanista, il Milan sta andando bene agli stessi punti dell'anno scorso in classifica, però questo intoppo che quest'anno ci ritroviamo davanti, non lo so fino a quando durerà, ecco, questa è la mia cosa. Ma io le ho appena letto all'inizio il calendario delle prossime tappe, ho l'impressione che non solo sia destinato a durare ancora per qualche tempo, ma potrebbe anche ampliarsi il distacco, sempre se stiamo alla carta, poi insomma alla carta si sceglie il ristorante, non si vincono i campionati, e quindi evidentemente poi è la prova del campo che conta, ma insomma da qui al confronto diretto non c'è dubbio che sempre su questa famosa carta gli ostacoli più alti li abbia il Milan e non la Juventus. Poi la Juventus li troverà evidentemente dopo, mentre invece la parte finale, la parte discendente del calendario sarà poi per l'appunto in discesa per il Milan, ma intanto a occhio mi sembra che nel breve periodo la si possa presentare così, questa sfida, questo testa a testa. Secondo lei a quinta non potrebbe rientrare nei piani questa Juve che fa della corsa una delle sue principali doti? Sia di nuovo alla carta, sulla carta sì, ma evidentemente in pratica no, perché in pratica Conte non Iaquinta non lo vede, insomma. Ulisse dice, come al solito, non concordo sui suoi giudizi tecnici, nello specifico ha ragione Snyder e non Ranieri. Sì, cioè, ha ragione Snyder nel senso che lui vorrebbe giocare nel suo ruolo, ha ragione Ranieri nel senso che gli dice guarda che oggi due punte e te dietro le due punte da trequartista, questa povera Inter di questo periodo qui non riesce a reggerlo, e se abbiamo fatto, interpreto quello che potrà dirgli Ranieri, se abbiamo fatto 7 vittorie consecutive, peraltro senza esibire questo grande calcio ma facendo comunque questi eccellenti risultati, è perché la squadra era molto compatta e ha giocato in maniera più risparmiosa e assai poco sbilanciata. E poi chi dei due ha ragione se la vedranno loro, certamente la cosa mi riguarda, se permetti, in maniera molto ma molto relativa. Antonio Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io chiamo da Bologna ma sono un tifosissimo del Napoli. E niente, avevo due parole per questo Napoli che insomma l'anno scorso ci ha fatto sognare, e a gennaio bene o male lottava per lo scudetto, ma non abbiamo praticamente preso nessuno per cercare quel colpo in più per arrivare a un titolo che forse non sarebbe comunque arrivato. Quest'anno invece vedo che le cose vanno male, ma a livello di mercato Milan e Juve si rinforzano e noi stiamo a guardare. Credo che il Napoli abbia dei grossi problemi strutturali soprattutto in difesa, e poi manca un centrocampista di grande qualità. Però la dirigenza la vedo ferma, la vedo immobile, abbiamo preso un ragazzino che è sicuramente un ottimo prospetto, ma finisce lì. E questa squadra, anzi, a Genova, insomma, il risultato è un po' bugiardo, perché noi abbiamo fatto 3-2, ma poteva finire 4-2, 5-2, poteva finire anche 4-0. Cioè, voglio dire, abbiamo fatto due gol in 2 minuti, ma casualmente, la squadra non gira e non capisco come mai, come ci si muova, insomma, questa dirigenza non la comprendo. Ma cosa deve fare De Laurenti? Cioè, rispetto alla squadra dell'altro anno ci ha innestato un centrocampista come Ingler, che era perlomeno uno dei migliori sulla piazza, sicuramente un signor giocatore di grande personalità. Poi che nell'Udinese facesse meglio che a Napoli, questo può dipendere da tanti fattori, ma non si può dire che sia stato un acquisto di basso profilo. Pandev ci ha messo un pochino ad ambientarsi ed è un altro che non mi sembra tanto un ragazzino o tanto un ripiego, ma poi il suo contributo, quando lo chiamano, sta cominciando a darlo. Certamente la difesa ha peggiorato il suo rendimento, però è quella delle scorse stagioni, di quella passata in particolare. Insomma, ci sono gli anni in cui tutto funziona e gli anni in cui meno. Io insisto nella mia teoria: il Napoli ha avuto il grande merito il grande merito di passare il turno in quel girone di ferro di Coppa, ma gli è costato carissimo in campionato, perché il dispendio di quel periodo si è poi riverberato sul rendimento in campionato, e una volta che la classifica diceva, condannava, no, ambizioni o speranze di rimonta, c'è stato una specie di stacco mentale, per cui quello che oggi conta per il Napoli è la Coppa, anzi sono le coppe, perché poi c'è anche questa semifinale col Siena, peraltro, in Coppa Italia. E io credo che per valutare complessivamente la stagione bisogna vedere fin dove arriverà il Napoli in Coppa Italia e soprattutto in Champions League. In campionato è chiaro che tanto tanto lontano non va più. Giampaolo, Roma, buongiorno. Buongiorno, senta Garantini, lei che professionalmente è molto dotato e intellettualmente è onesto, mi spiega una cosa che non ho capito. Si fa venire, parlo della Roma, si fa venire un allenatore dall'Europa e non si prende in considerazione un altro allenatore che ha le stesse caratteristiche di questo allenatore, parlo di Zeman. Lei che è preparato, mi spiega la differenza tra questi due allenatori? La ringrazio. Non sono preparato abbastanza, nel senso che non conosco il calcio di Luis Enrique abbastanza per poterlo paragonare a quello di Zeman. Diciamo che il calcio di Zeman, la Roma lo ha già conosciuto, lo ha già frequentato e ne ha avuto delle illusioni e anche qualche, direi, delusione. Credo che il calcio di Zeman sia un calcio troppo rischioso da fare a livello massimo, cioè quello della Serie A. Il calcio di Luis Enrique è a sua volta un calcio che ama il rischio e il pericolo, è un calcio che ogni tanto è un po' tanto esposto dal punto di vista difensivo, ma non è ancora il calcio, così come non ha le punte di divertimento nella fase offensiva che è in grado di offrire Zeman, ma stiamo sempre parlando però di un'altra categoria, perché insomma le esperienze fatte a livello molto alto sono state contraddittorie, mettiamola così. Io credo che alla Roma di oggi, soprattutto di queste ultime due o tre partite, ma anche soprattutto De Rossi, che è un giocatore insostituibile per quel tipo di calcio. De Rossi è un giocatore prezioso per qualunque squadra e a qualunque livello, ma per il tipo di calcio che Luis Enrique propone, Questo filtro centrale subito davanti alla difesa è determinante, e anche perché i difensori individualmente sono davvero, non dico più scarsi, sempre più scarsi, ma sempre più precari. Cioè l'errore che commette ieri Juan sul gol di Di Maio è inammissibile in un nazionale brasiliano. La rubrica di Paolo Casarin sul Corriere della Sera è stata la giornata, scrive, dell'assistente De Luca, che in Lecce Inter ha cancellato la gioia del gol a Cambiaso e subito dopo anche a Milito. Due gol che potevano capovolgere il risultato della partita, che una bandierina assolutamente precisa ha invece annullato. E poi continua così: riconoscere la bravura di De Luca è anche un modo per sottolineare che la categoria degli assistenti italiani, gli antichi guardaline, merita un plauso per la difficoltà del loro contributo tecnico e per l'elevata percentuale di interventi esatti. Questi arbitri di linea, spesso discussi in tempo reale dai calciatori e dai commentatori, si affidano con sicurezza alla sentenza della Moviola, che quasi sempre è in grado di confermare l'esattezza dei loro interventi. In effetti la Moviola è la loro salvezza, senza la tecnologia sarebbe più facile metterli in discussione. Non dimentichiamo inoltre che alzare la bandiera o lasciare scorrere il gioco sono decisioni pesanti, come concedere un rigore, visto che si giudica la regolarità della fase finale dell'azione molte volte all'interno dell'area. Concentrazione, attenzione e rapidità di movimento, i loro punti di forza, senza dimenticare che molte volte sono puntuali e ascoltati i consiglieri dell'arbitro per tante altre decisioni. Un elogio in piena regola della categoria dei guardalinee italiani, degli assistenti, firmato giustamente, che condivido dalla prima all'ultima riga, da niente meno che da Paolo Casarin. Michele ha chiamato dalla provincia di Taranto, buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti per la competenza e il garbo con cui conduce la trasmissione. Io sono un tifoso della Juventus e volevo segnalare questo. Sto sentendo in questi giorni un assalto a Nainggolan del Cagliari, senza dubbio un gran bel giocatore da comprare, ma volevo la sua opinione autorevole. Cioè, secondo me la Juventus rischia di rompere così un giocattolo stupendo che Conte è riuscito miracolosamente a creare, e secondo me potremmo arrivare fino alla fine diciamo ai traguardi migliori. E poi se il Milan sarà superiore, pazienza, ma è inutile andare a spendere dei soldi quando per esempio si può prendere eventualmente per la panchina un Pizarro a pochi soldi. Secondo me poi la Juventus dovrebbe puntare a comprare un grande fuori classe per poi rilanciarsi anche a livello europeo. Cioè lei dice risparmiare sulle piccole spese o sulle medie spese, che poi Nainggolan in realtà costerebbe o costerà abbastanza caro, per poi insomma capitalizzare tutti questi risparmi e dar l'assalto a un vero grande giocatore, quelli che parlano bene chiamano top player. Ma è una teoria interessante, però è anche vero che mentre di punte la Juventus aveva fino a poche ore fa il primato del mondo, adesso lentamente con Amauri prima la Fiorentina, adesso con Toni lì agli Emirati o dove è finito, insomma comunque la squadra di Zenga, già la rosa si è un po' sfoltita, però ne rimangono molte. L'importante sono i patti chiari e la chiarezza delle scelte di Conte. Cioè Borriello non ha dato ombra a Matri, no? Mi pare, è arrivato, probabilmente era convinto di giocarsi da protagonista e sta imparando a sue spese che se la giocherà da alternativa se tutto va bene, anche perché mi pare che Matri i suoi gol li faccia, mi pare che abbia tutt'altra rapidità di esecuzione rispetto a Borriello, e mi pare anche che se appena guarisce, tra Quagliarella e Borriello stiamo parlando di categorie così a spanne, per possibilità di colpi eccetera. Questi poi sono sempre giudizi che possono cambiare in corsa, ma e questo è l'attacco. A metà campo, insomma, se hanno un problema, se c'è un guaio per Omar Chiesi o Pirlo o Vidal, le alternative di qualità non sono tante, quindi che la Juventus stia cercando di trovare qualcuno lì, mi pare che una logica ce l'abbia. Come Domenico ha chiamato da Parma, buongiorno. Sì, dottor Galantini, buongiorno, complimenti per il suo programma. Niente, io appartengo alla cerchia dei tifosi del Napoli delusi, perché quest'anno si poteva puntare a qualcosina a un ampiazzamento un pochettino di più alta classifica, invece navighiamo nell'ottava posizione della classifica. Naturalmente non voglio mettere il dito nella piaga, ma comunque c'è da evidenziare questa difesa che è a dir poco scandalosa. Prendiamo gol a dir poco scandalosa, perché se dovesse dire molto cosa direbbe? Molto scandalosa. Ah, ecco. Perché continuiamo a prendere gol da qualsiasi attaccante, da qualsiasi squadra, paghiamo le squadre piccole, poi forniamo delle prestazioni, non dico esaltanti, perché il Napoli esaltante è quello dell'anno scorso, quello di quest'anno non esalta più, anche con le grandi, quindi fa fatica anche con le grandi, nonostante il fatto facciamo dei buoni piazzamenti. Il problema principale è che c'è la difesa. Si sentiva parlare di un rientro in Italia da Rubic Kanzan di Bocchetti. A parer suo, è un giocatore che può far fare il salto di qualità al Napoli in difesa, o avremmo bisogno d'altro? No. Grazie, arrivederla. A parer mio no, grazie, arrivederla, anche questa non è male. Grazie Domenico. No, non credo credo che cambierebbe in maniera determinante le cose. Mentre invece mi sono accorto che dal menu preparato di possibili riascolti, c'è quello che riguarda Girardino, che è davvero un bentornato ad un giocatore che ha passato un lungo periodo, una lunga eclissi davvero, e che forse adesso nel Genoa sta ritrovando non solo una dimensione più consona alle sue qualità, ma anche la voglia di tornare ad un livello che nella Fiorentina sinceramente aveva smarrito. È stata una bella giornata, sicuramente è stata una vittoria importante, e sono contento per il mio gol, per gli assist a Rodrigo, per la prestazione di tutta la squadra, e sono veramente felice. Ogni palla che che servo a Rodrigo, la trasformo in gol, quindi è ancora meglio. E oggi ha fatto due grandissimi gol, è arrivato anche il mio gol con una grande palla di Beppe, di Sculli, e quindi sono felice. Abbiamo fatto una partita importante, soprattutto il primo tempo credo che non abbiamo sbagliato nulla, e secondo tempo nella prima parte, i primi 15-20 minuti siamo arretrati un po' troppo e loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni, hanno fatto questi due gol, però siamo riusciti a portare a casa la partita. Sconto per il Benevento, istanza respinta per la Cremonese. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, NAS, ha infatti accolto l'istanza presentata al club campano riducendo a 2 punti la penalizzazione in classifica, mentre ha respinto l'eccezione di inammissibilità e rigettato l'istanza di arbitrato della Cremonese. Entrambe le società si sono rivolte al NAS per la controversia con la FIGC nell'ambito dello scandalo del calcio scommesse. La Cremonese era stata penalizzata di 6 punti dalla disciplinare, sanzione confermatale oggi dalla Corte di Giustizia federale a titolo di responsabilità oggettiva per gli addebiti contestati a Marco Paoloni. Il Benevento invece era stato penalizzato originariamente di 9 punti in primo grado, poi ridotti a 6 dalla Corte di Giustizia e oggi a 2 dal TNAS. Luca da Treviso, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Ascolti, io sono un tifoso del Napoli. Vorrei, mi ricollego ad alcune cose che ho sentito prima da altri ascoltatori. Sì. Volevo fare se le do il numero, se le procuro il numero di quei due ascoltatori, ve la vedete, no, magari tra voi? No. Allora, no, ascolti, no. Io volevo fare un applauso innanzitutto al presidente De Laurentiis. Sì. Se noi ricordiamo fin poco tempo fa che giocavamo in C2, in C1, sì, e ora siamo arrivati agli ottavi di Champions, penso che già è un passo molto elevato. L'unica cosa che posso obiettare al presidente è la conferma di Mazzarri. Mazzarri già, diciamo, lo scorso anno ha avuto quella sua reazione e l'ha riconfermato poche settimane fa quando ha esternato che il Napoli è una squadra da settimo posto. Se il Napoli è una squadra da settimo posto, non penso che potrebbe mantenere un certo signor Lavezzi, un certo signor Cavani e un certo signor Anzi. Bene, allora, la ringa di difesa è arrivata puntuale, grazie, ne tengano conto gli ascoltatori di prima. Andiamo a Treviso, dove troviamo Luca, buongiorno. No, non troviamo Luca a Treviso, troviamo Massimo a Brindisi, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io intervengo perché prima c'è stato un radioascoltatore che parlava dei burazzisti. Sì. Io ho saputo che è stata multata anche per questo. Su questo non c'è niente da dire perché è inutile neanche parlarne di questa cosa. Però una cosa vorrei puntualizzare. Io molte volte quando vedo le partite sento degli insulti che non sono razzisti. Si vuole far vedere che siano razzisti perché sono indirizzati verso un giocatore di colore. Ad esempio è stato per Barodelli, forse sabato è stato per Armero, ma non sono dei burazzisti, sono degli insulti che sono sempre deprecabili, su questo non c'è niente da dire. Però poi non si devono evidenziare queste cose per forza contro la Juve, quando noi siamo quelli che siamo andati nello stadio di Firenze, nello stadio di Milano, dove ci rinfacciano ancora i 39 morti, ma l'indomani non sento nessuno in Italia. Lei sente male, non usi la parola rinfacciano per cortesia, perché io credo che sia davvero di una sgradevolezza assoluta. Cioè io non capisco perché bisogna. Queste sì che sono cose che vanno taciute, no? Se ci sono dei decerebrati tali da scavare fino in fondo nella loro demenza per espressioni o che spesso finiscono anche su cartelli e striscioni di quel genere, allora sì, io credo che è giusto far scattare una sorta di censura preventiva per evitare che altri esponenti del pensiero debole ne ricavino linfa, no? O ne ricavino attrazione magari. Se invece si parla di educare il pubblico, è giusto distinguere tra gli insulti che purtroppo sui campi sempre ci sono stati e sempre ci saranno, di stampo di stampo insulto, e quelli invece che hanno una connotazione razzista. Non li scelgo io, non li sceglie lei, li sceglie il commissario di campo, il giudice di campo che poi fa rapporto all'arbitro e al giudice sportivo. Ci fidiamo almeno di quelli, oppure nemmeno di quei giudici in questo povero paese ci si può più fidare? Paio di mail, una è firmata Francesco Panelli, dice: da quel che leggo sul web pare che Parma-Juventus domani sera sarà molto probabilmente rinviata per neve, e aggiunge: sino a quando dovremo vivere in mezzo a questa demenzialità che vuol far giocare le partite in pieno gennaio negli stadi più freddi al nord. Dunque il calendario quello è, caro Francesco, cioè, poi che si possa distinguere tra anticipi, posticipi, che giocare il pomeriggio sia meglio che non la sera, eccetera, questo sì, sono battaglie di retroguardia, ma insomma continuano ad avere una loro nobiltà, ma anche un loro senso. Però non è, o si ferma il campionato per due mesi, insomma era estate fino a due settimane fa, adesso arriva un'ondata di gelo, può darsi che domani sera questa partita debba essere rinviata, può anche darsi che nel fine settimana, se il web ha ragione, nel fine settimana non si gioca da nessuna parte, mi sa, perché arriva un'ondata di gelo perlomeno al nord che rischia di portare temperature tra i meno 10 e i meno 15, ripeto, sempre stando alle anticipazioni no, dei meteorologi via internet, e io credo che in quelle condizioni davvero il campionato andrebbe fermato, ma non è che lo puoi sapere prima, quindi non starei a farla così lunga. Mentre invece Andrea da Piacenza scrive: non le sembra che Napoli e Udinese siano squadre sopravvalutate per diversi motivi? Il Napoli gonfiato dall'ambiente facilmente esaltabile, l'Udinese da molti giornalisti, mi sembra una squadra che spesso rinuncia a giocare e vive di rapina. Caro Andrea, io dico che il calcio è come lo scopone, o lo capisci subito o non lo capisci più. Non vorrei che fosse il suo caso. Il Napoli è gonfiato da che cosa? Il Napoli è una squadra che ha fatto fuori fior di squadroni per potersi giocare gli ottavi di Champions, e ci è riuscito con pieno e grande merito. E si giocherà la semifinale di Coppa Italia e quasi certamente, o molto probabilmente, anche la finale. Non mi sembra una squadra gonfiata. L'Udinese gonfiato dai giornalisti. Ma io vorrei che lei avesse visto Juventus Udinese sabato sera. Lei scrive che è una squadra che rinuncia a giocare e vive di rapina. Se un errore ha commesso l'Udinese a Torino l'altra sera è quello di aver provato a vincere, perché se sull'1-1 si fosse accontentato del pareggio, probabilmente forse l'avrebbe anche potuto portare a casa. E comunque, se tiene conto che nella Juventus insieme a Matri il migliore è stato Buffon, ma insomma, giocando sul suo campo non mi sembra che l'Udinese sia una squadra che vive di rapine. Vabbè. Andrea, Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo solo intervenire su quanto riguarda la partita di Juve Udinese di sabato scorso, perché c'è stato alcune critiche verso l'arbitro per quanto riguarda quel fallo a 30 secondi dalla fine di Chiellini. E subito ci sono stati alcuni degli ascoltatori che hanno messo in dubbio sull'onestà della Juve e tutto. A me mi sembra un poco strano, perché fino a un paio d'anni fa, l'anno scorso, la Juve che viaggiava a metà classifica non se ne parlava, la Juve era assente dappertutto. Adesso che noi, io penso, meritatamente siamo primi in classifica, si incomincia a parlare di nuovo di queste cose, mi sembra una cosa allucinante, ritorniamo sempre alla vecchia dirigenza. Bisogna vedere di interventi allucinanti oggi questo non ne ho sentito uno solo, Andrea. Con senta questo invece, proviamo a metterla su un piano diverso. Roberto Solbiati ha inviato una mail in cui dice: nella settimana che ha spento le illusioni, noi poveri interisti scherziamoci su e riflettiamo sulla maledizione dei calzoncini bianchi. Avessi del tempo, proporrei una petizione da inviare al presidente Moratti di abolire i calzoncini bianchi con la maglia nerazzurra, non solo perché portano male, ma soprattutto perché sono un vero pugno nell'occhio, effettivamente tanto, insomma, l'abbinamento non è il più felice. Luca, chiamato da Teramo, buongiorno. Sì, salve, approfitto della vostra consueta disponibilità. Volevo rassicurare, io sono tifoso della Juventus, volevo rassicurare il tifoso che ha appena chiamato circa la questione degli arbitri. Sì. Vuol dire che è buon segno, insomma, se si comincia ad associare la Juventus all'arbitraggio vuol dire che... Eccola. Per me... Eccola. No, però mi scusi, ma non volevo, però il mio intervento non era... L'ho detto che oggi era una trasmissione di alto livello. Sì, grazie. Volevo dire. Grazie ai contributi, sì. Sì, più che altro volevo intervenire su questo invece. Io ho visto spesso il Milan naturalmente giocare, mi sembra che da un punto di vista proprio del gioco la Juventus sia migliore, ma il Milan ha però come differenza Ibrahimovic, solo questo. Grazie Luca, sentiamo cosa ci ha preparato per oggi, 30 gennaio, Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 gennaio 1927. A Ginevra l'Italia batte in scioltezza la Svizzera per 5-1 in un incontro amichevole. Da registrare la presenza in campo in contemporanea di due terzetti leggendari, uno in difesa e l'altro in attacco. Combi Rosetta e Caligaris, che in seguito si ritroveranno anche nella Juventus formando una retroguardia di grande valore, e Baloncieri, Libonatti e Rossetti, trio delle meraviglie del Torino. I tre calciatori granata, per la prima volta insieme in nazionale, firmano la vittoria sulla Svizzera con una doppietta a testa per Baloncieri e Libonatti e il gol del 5-1 finale di Rossetti. Carina questa dei due trio. Storici, perché sono nomi che appartengono alla storia, ma quella con la S maiuscola del calcio italiano, la storia, quella, certamente quella antica, però con l'attualità che ho sentito arrivare oggi dai microfoni, tutto sommato è certamente un po' consolatoria. Domenico da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Tifoso romanista. Faccio solo una battuta sul Napoli perché ho sentito parlare parecchio. Pure lei, solo sì. Dire che ieri, forse anche con un Buffon nella difesa della Juve, ma con un Palacio del genere c'era poco da fare a livello difensivo. E invece per quanto riguarda la Roma volevo chiederle se secondo lei la Mela potrebbe essere il sostituto naturale di Totti. A tavola forse, a tavola potrebbe essere. O negli spot non credo, a pallone ho l'impressione che ne debba mangiare di... stiamo parlando, quando parliamo di Totti, stiamo parlando di un giocatore che a 16 anni e mezzo era avanti, cioè aveva qualità, caratteristiche, forza fisica, personalità eccetera, che oggi la Mela, che è certamente un buon giocatore interessante, non ha all'età di, quanti ne ha, 22, 24 grosso modo, no 19 forse, beh se ne ha 19 allora torno un pochino indietro, nel senso che ha dei margini, è un giocatore di grandi prospettive, indubbiamente di qualità, però ripeto, Prima di prendere il posto di uno che insomma è da 20 anni un leader di quella squadra, che ha segnato 211 gol con quella maglia in Serie A, credo che sarebbe il caso di andarsi molto pianino, ma non tanto per mancare rispetto a Totti, intendiamoci, che tutt'altro, ma quanto per non sovraccaricare la Mela di responsabilità che magari potrebbero schiacciarlo. Nel frattempo fervono le trattative di mercato. Coutinho è andato all'Espagnol, Coutinho dall'Inter è andato all'Espagnol, ma ha detto che tra 5 mesi torno e non si capisce bene se è una rassicurazione o una minaccia. E, mentre invece l'Inter è vicinissima a Guarín, che è questo centrocampista del Porto di origine colombiana. 20 anni il 4 marzo compie la Mela, quindi davvero al momento ne ha ancora 19. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio e a domani. A tempo di sport.